aziende le andavamo a vendere anche in punto vendita a Primo. Avevo conosciuto questo personaggio, era un personaggio particolare, anche lui autodidatta, che aveva aperto questa libreria nel 1968, era un personaggio incredibile, grande oratore, grande divulgatore lui soprattutto, e dentro la sua calusca, la caratteristica della calusca era che era una sorta di spazio neutrale tra le diverse anime del movimento degli anni 70, quindi marxisti-leninisti, lotta continua, potere operaio, anarchici. E dentro la Calusca però era inserito dentro questo quartiere, che poi magari ne parliamo meglio, in particolare che passavano anche gli artigiani, gli operai, i ladruncoli, la ligera, che è la piccola malavita che non usa armi né violenza ma soltanto raggiri, capito? La leggera, tossici, femministe, di tutto che ci passava dentro, era un porto di mare la Calusca, e ci ha accolto anche noi Panther, reduci dal nostro sgombero. E quindi lì io imparo, dico subito che ho avuto due grandi maestri, oltre Primo, che mi hanno insegnato soprattutto a lavorare politicamente sull'editoria, che da una parte è Cesare Bermani, che è uno dei più importanti, ancora adesso lo mantenne, non è ancora vivo, è il grande studioso del racconto orale, cioè appunto di raccontare la storia sociale del Novecento, soprattutto lui ha fatto, partendo dai testimonianze orali di chi ha fatto le pratiche, non tanto quelli che hanno poi fatto percorsi intellettuali che poi sono diventati magari anche cani da guardia del padrone. E mentre invece lui ha fatto questo lavoro sui partigiani, ha fatto sui contadini del Novarese, ha fatto su tutte l'operaio massa degli anni 70, facendo parlare queste cose qua. E io ho imparato da lui proprio un approccio che la letteratura può dare nella divulgazione di una storia che non ha nulla a che fare con il capitalismo. Dentro la Calusca io ho imparato questo. Dall'altra parte, diciamo la parte un pochino più artistica, io l'ho imparata invece da Nanni Balestrini. Nanni Balestrini, che era uno dei... sono tutti e due frequentatori della libreria, che io riconosco perché sono lì quasi tutti i giorni, sia uno che l'altro. Nanni Balestrini, che era appena tornato all'epoca, 85-86, era appena tornato da 79, era scappato sei anni in Francia, a Parigi, e da lui ho imparato a scrivere in una maniera, mischiando un po' la poesia, che però io l'ho tramutata in una poesia fumettistica, poi dopo ne parleremo, è quello di mischiare anche i racconti orali dentro una dinamica narrativa. Questo è quello che mi ha insegnato. Io in quel periodo in Calusca sono stato dentro a una percorso formativo molto particolare. Un percorso formativo che è un percorso di tipo rivoluzionario. Cioè, gli anni 70 io le ho imparate lì, io che ho letto tutto, Primo mi stava, io racconto il primo libro che mi ha fatto vedere Primo, che è stato La Banda Bonneau, che era un libro che per me è stato importantissimo per tentare di capire quello che io avevo visto, vissuto, sulla mia pelle e sulla pelle di tutti noi del punk, dentro a una storia che gli anarchici della Banda Bonneau in qualche maniera ci ricordavano. E poi tutto il resto, Primo mi ha insegnato tutta questa cosa qua. E infatti fortunatamente c'è sta roba qua, sta ricucita. Il punk io l'ho sempre un po' visto come una dimensione anche di fare un po' a pugno con la generazione precedente. Cioè, nel senso, la generazione precedente, che ti devo un po' solo insegnare la sua sconfitta, era oggettivamente, ha visto del punk come va di retro lascia perdere, insomma. Mentre in tutta questa dimensione effettiva nuova, anche di racconto, cioè, Marco Filopata ha scritto un mese fa, all'incirca, un ricordo di Giancarlo Morandi. È un altro poeta del 77, degli anni 70 che si prendono sul serio, però fino a un certo punto, e che riescono a essere anche utili alle generazioni a venire, piuttosto che insegnare appunto le sconfitte come facevano negli anni 80. Poi l'hanno smesso un po', negli anni 90 non ho perso quell'attitudine, però qua in provincia era veramente pesantino il discorso. Però la questione, oltre a questo ragionamento qua appunto sull'ambito, è l'incrocio con le strane creature, ovvero con quelli che masticano già alcuni, sì, dentro, sì. Alcune dinamiche che vanno anche oltre il punk. No, sì, certo, sicuramente. In questo clima dentro la Calusca, appunto, che c'era questo milieu di personaggi, noi passiamo da un ambiente assolutamente refrattario, che come era il punk, che non volevamo, chi non era punk, chi solo una volta aveva fatto qualcosa con comune per noi, buttare una X, non produzionare più niente, a capire il discorso delle alleanze, che era fondamentale allora come lo è adesso. Le alleanze con persone che non erano proprio punk, capito? Parlo, se vesti punk entra il virus, no, se non sei vestito da punk, via, fuori dai coglioni, non ti vogliamo, capito? E Calusta capiamo che non è così. Primo, ci insegna anche che la rivoluzione da soli non la si fa. E noi diciamo, noi non vogliamo fare la rivoluzione, noi vogliamo fare soltanto un gruppo musicale, una fanzine, vogliamo fare la rivoluzione. Però Primo ci dice, non conto se avete 23-24 anni, conto quando comincia a fare 25, quel periodo lì. E quindi noi punk iniziamo a collaborare in maniera stretta con altri personaggi che frequentano la Calusca, che però non sono proprio punk come noi, che hanno rifiutato per esempio la scuola, sono universitari. E tra l'altro in quel periodo, 1985, era nato il primo movimento, che si chiamava Movimento dell'85, che era un minimo il movimento universitario che aveva tentato di fare qualcosa, ma poi è finito male. Però alcune persone più radicali di quella avevano iniziato a frequentare la Calusca. Si chiamavano creature simili. Noi punk, nella nostra ignoranza, credevamo che erano creature simili a noi. In realtà erano creature simili, perché loro avevano tutto un discorso più filosofico che noi non capivamo allora per nulla. E quindi creature simili a quello che stava accadendo rispetto a quello che era successo negli anni 70. Creature simili che si stanno in qualche maniera riaggregando. Noi invece eravamo convinti di questa roba qua, vabbè, comunque è andata così, noi siamo andati amici. Questi erano soprattutto studenti di filosofia, studenti di sociologia e studenti di informatica. Queste tre situazioni si sono unite a noi punk, e in comune avevamo la passione per le autoproduzioni, quindi che è una cosa che purtroppo è sparita adesso, ma le autoproduzioni erano oggetti fisici quasi feticci che si passavano dentro quella rivista, quel disco autoprodotto. C'era un significato quasi magico che si tramandava. Adesso purtroppo con l'immaterialità non c'è più e c'è un problema. Cerchiamo di almeno comprare libri che ancora un po' resistono. E quindi questa passione ci univa, noi e creare creature simili. E quindi primo vedeva che noi avevamo sempre questa mania dei banchetti, noi punk avevamo sempre avuto e anche le creature simili, allora ci diede un angolino dentro la sua libreria e lì è nata poi l'aggregazione che subito dopo la chiusura del virus inizia a ragionare di avere un altro spazio. Il virus quando è stato sgomberato, 15 maggio 84, il giorno dopo, non sapendo dove andare, siamo andati in un altro centro sociale che era il Don Cavallo. Il Don Cavallo era un posto dove suonavano soltanto bonghi e chitarre acustiche, ma era un posto enorme, noi non ci volevamo credere, abbiamo organizzato subito concerti. Prima era il Capannone Grosso. E poi però il Capannone Grosso era troppo grosso per noi, ci piaceva il clubino più piccolo, ci trasferiamo nei sotterranei di Don Cavallo, in un posto che si chiama Helter Skelter. Il gruppo fondativo di questo scantinato è l'Helter Skelter, sta in Calusca, si trova tutti i giorni in Calusca e poi il venerdì e sabato organizza nei sotterranei di Don Cavallo questa iniziativa che si chiama Helter Skelter. Ma quelli del Don Cavallo, prima avevamo un rapporto un po' difficile con loro, chiaramente, anche perché non c'erano, erano tutte donne, perché c'erano soprattutto le mamme del Don Cavallo, molto rigide, allora la commissione cultura, tipo proprio leninista, però uomini non c'erano perché erano tutti in galera, quindi le mamme del Don Cavallo, no? Da qui che parte poi mamma non che va. E quei pochi che sono rimasti, i ragazzi più giovani, tutti quanti la continuità di quel periodo, quindi gli autonomi, diciamo, si appassionano tantissimo per un gruppo che è venuto fuori dal nostro ambiente, dall'anarco punk di allora, e che però stanno iniziando a fare successo, e sono i CCCP. CCCP vengono, al virus l'importante, si dice no, la società dello spettacolo, non è dove, sì. La società dello spettacolo non è mai entrata nei centri sociali, è mai entrata, io spero, anzi quando uno si fa vedere un minimo di aderenza a quelle logiche lì viene più o meno cacciato, no? Al virus era ancora peggio, il virus nessuno prendeva dei soldi, solo biglietto del treno e mangiare e dormire con noi, l'unica cosa, figurati, puoi stare un gruppo, puoi stare un altro, non c'è alcuna differenza tra quello che sale sul palco e quello che sta a ascoltare, no? Figurati. E CCCP erano venuti più di una volta a suonare al virus, sono stati segnalati al racconto, in quel momento chiedono 1 milione di lire ai militanti del Don Cavallo, e loro sono bene contenti perché sono contenti, spara, gli rispara con le tre dita ancora in quel mondo lì. Per noi è un tradimento, è un vero e proprio tradimento, perché loro rubavano la nostra cassa comune. Per noi punk era, i soldi erano come carta da culto, come carta igienica, non valevano niente, però i soldi della cassa erano sacri, erano di tutti, quelli lì erano sacri, che cazzo, se no non facevano mangiare, per esempio. E quelli erano soldi però che erano gestiti in assemblea, e loro ci chiedono 1 milione, 1 milione sono la cassa nostra. E quindi noi ci arrabbiamo, ma in quel momento il collettivo del virus è completamente disgregato. Molti che tornano a farsi le pere, e quindi racconto questo momento dentro a Pirati dei Navigli come momento di definitiva disgregazione di quello che era stato il virus. Vado in Calusca, c'è forse l'altra scherza che lo riusciamo a fare, ma l'ambiente anarcho-punk da dove venivo io è completamente finito. E in questo c'è tanto da riflettere, perché è un momento che in qualche maniera anche i centri sociali sono in questo momento storico, in quella situazione. E quindi succede appunto che vado io e anche tutti i miei amici che vivono con me dicono no, è un suicidio, ormai tutti piacciono i CCCP. perché avete fare un'azione. E noi invece in due abbiamo fatto, in due abbiamo detto no, questo è troppo, e abbiamo buttato degli ortaggi, dei pomodori, della frutta marcia addosso al concerto di Ferretti, e Ferretti disse: noi siamo filo sovietici, non filo Pat. perché però c'era tutto lo cavallo pieno, tutti che erano invisibili, per dire il filo dal palco, io ho rischiato il linciaggio. Mi volevano massacrare e poi guarda caso i CCCP ritornano fuori adesso e tutti che mi dicono: ma dove cazzo è? Cioè, cosa perché? Poi fondamentalmente tralasciamo la svolta mistica ratzingeriana. Buon giovanni. No, questo non è tanto quello. Non è tanto quello. È il fatto che poi vanno a suonare, no? Però tutti i miei ex compagni, che cazzo è venuto in mente di tirare la cipolla a marcia addosso a Ferretti. E io devo difendere una posizione che di me stesso quando avevo 24 anni. Non è facile. Mi hanno telefonato. Giornalisti, tutto quanto, e però io dico sempre: hanno rubato la cassa comune per tagliare il conto. arriviamo al punto, alla fine sono una questione di soldi, è stata, e tutto, ma la musica è bellissima, e faccio vedere, la musica è bellissima, che a me mi piace, non dico niente, però io non sono un esperto di musica, non capisco niente di musica, ero stonato allora, sono stonato anche adesso, però la storia della musica sociale è tutta un'altra cosa. Poi si arriva fondamentalmente a un ragionamento che sta dietro al luogo Conchetta. Il Conchetta, per o male, è un posto un po' particolare, cioè nel senso, a Milano si coagula in mezzo alla Conchetta un pezzo di femministe, un pezzo di tifosi della curva del Milan, un pezzo di motociclisti, un pezzo di... ci sono una valanga di aneddoti su queste cose qua, tipo, non so, quella volta che a Milano nel 94 praticamente Bossi dice: vado anch'io al corteo del 25 aprile, e praticamente si becca Caronte, che è sto motociclista enorme, gli dà due sberle, perché dice: cosa fai te, stai con Berlusconi, e poi vieni nel corteo del 25. Per cui realisticamente era un po' sto mondo, fare cyberpunk. Diciamo che prima di arrivare in Conchetta, sì. Tra il Teschelter e Calusca viene fuori la redazione di Decoder, della rivista, okay. Decoder. Quello lì, quello diciamo che è il vero propulsore, è stato quello, perché è una rivista che al giorno d'oggi se ne fanno poche, però sono il principio di riaggregazione, di ricomposizione sociale, lo si ha attraverso degli strumenti specifici dove le persone, le intelligenze si trovano insieme. E le riviste una volta funzionavano in questa maniera. Ci sono ancora certi tentativi di riviste, e se andate a guardare, proprio per quanto riguarda la storia della lotta di classe, le riviste sono importantissime. Adesso con il web si perde tutto, anche se ci sono siti ancora al giorno d'oggi qui in Italia che sono molto interessanti, per non parlare di quello che c'è in Francia o in Inghilterra, ma anche negli Stati Uniti. Sono dei siti che in qualche modo sono come una rivista una volta. La rivista però è le intelligenze che si trovano insieme, chiacchierano tra di loro, le intelligenze si mischiano e viene fuori un'intelligenza collettiva. E questo è quello che ci aveva insegnato Primo, sostanzialmente. E lì ci ritroviamo appunto con quello che studia filosofia, Raff Valvola, con quello che studia sociologia, Goma, con quello che studia informatica, Gianni, il cosiddetto UVLSI, e tutte le donne che lavorano anche nell'unione della comunità. E questo è stato quel periodo importante, perché noi avevamo un rapporto quotidiano dentro la Calusca e Primo ci dava, ci accompagnava nelle scelte anche degli argomenti su cui trattare la rivista. E in più avevamo pure anche nel Teschelter, questo scantinato sotto, che non era più musica punk come una volta, ma era musica in forte cambiamento, c'era soprattutto la musica industrial dentro, cioè erano praticamente post-punk più radicale, no? Che suonano soltanto tipo Einstürz und Neubauten, che erano i nostri grandi amici, e infatti ci faranno conoscere proprio loro. Dentro le Teschelter noi abbiamo questa proposta, era una proposta di musica molto dura, molto sperimentale, però allo stesso tempo lo volevamo chiamare anche clubbino, perché gli insegnamenti di Primo ci portavano a far capire cosa volevano dire alleanze. Primo era un grande ballerino e sosteneva che il ballo è fondamentale anche per questi principi di composizione, soprattutto perché le donne amano ballare. E se tu gli fai solo le menate di musica industrial, oppure menate di tipo politico come facevano quelli del Loncavallo, dovevi trovare comunque un momento per questo clubbino. Era un insegnamento di Primo. Il clubbino voleva dire che dopo il grande concerto c'era la possibilità per chi aveva voglia di ballare di stare lì insieme ancora, con musica molto più tranquilla e legata soprattutto a la questione importante che già allora stava arrivando, è della musica nera, la musica della diaspora nera, la musica che veniva fuori dal concetto occidentale. E questo è uno dei primi capisaldi della rivista Decoder, che in realtà Decoder, appunto, avevamo conosciuto questo amico degli Einstürz und Neubauten che si chiamava Klaus Meck, che aveva fatto un film che si chiamava appunto Decoder. Era un film dove c'era il cantante Mista Barnard come protagonista, c'era anche William Barrocks e c'era l'informazione come una banca, noi dobbiamo rubare quella informazione per appropriarcene, e che in qualche maniera si tenta con l'utilizzo di sperimentazioni che Barrocks aveva fatto sul cut-up ed altri, di sovvertire questo sistema basato sul consumismo. Tutta la questione era legata alle riot che si potevano scoppiare dentro i grandi magazzini che stavano iniziando. Ecco, questa suggestione la tentiamo di portare sul presente con il discorso sulle nuove tecnologie che stavano per arrivare. Le nuove tecnologie, Primo sosteneva soprattutto che bisognava decodificare il presente, e le nuove tecnologie erano in qualche modo destinate a diventare lo strumento principale di produzione. È stata questa l'intuizione, che in effetti poi l'abbiamo visto. Sì, magari l'abbiamo anche subito. Continuiamo a subirlo, ahimè. Però comunque Decoder è stata la prima rivista realizzata completamente su computer, la prima rivista che ha parlato questioni legate al rapporto tra produzione e nuove tecnologie, ed è stata anche la sua grande fortuna dal punto di vista della divulgazione che c'è stata. Ma dentro Decoder non c'era solo questa questione qua, che però è stata fondamentale. L'informatico ci portava i computer da dove arrivavano, dai centri di ricerca universitari, che erano computer tutti rovinati e vecchissimi già allora. Ma con l'aiuto di Primo, che potevano essere importanti, l'aiuto del sociologo che gli diceva qualcosa, del filosofo che gli diceva qualcosa, noi pare che la nostra disinvoltura, noi eravamo disinvolti, quindi che cazzo ce ne proviamo, non sappiamo fare ma proviamo, questa unione ha creato le basi forti di una redazione che poi andrà a parlare di tanto altro. Rivista internazionale dell'underground era Recorder, quindi lavorava anche sul tentativo di vedere le radici storiche del mondo underground, quindi si partiva dal beat appunto, e si partiva, quello era proprio la cosa che io ci lavoravo parecchio, perché c'era Nanni Balestrini e Cesare Verbani che mi aiutavano in questo percorso. Ma le nuove tecnologie sono state quelle fondamentali, anche perché ricordo che era un periodo storico che nessuno le usava, nessuno sapeva niente di niente. Io mi ricordo che appunto noi nella nostra rivista Decoder, poi dopo è arrivata in una maniera trasversale in ogni campo, sono arrivate addirittura le grandi aziende che si interessavano allo sviluppo per esempio del modem, che noi avevamo parlato che cos'era il modem. Allora loro hanno letto l'articolo, c'erano chi ci contattano, ci chiamano in questa ditta gigantesca, si chiama Fracaro, non ricordo ancora, gigantesca, tutta, ci chiamano come grandi esperti, ma noi eravamo una grande parte di cazzo ne so, fa la rivoluzione da prima. Dov'è la cassa che avete detto? E quindi mi ricordo che questo primo modem che ho visto io, che avrei visto Roma e l'altro tutti, era su un tavolo lungo, e c'era un piccolo computer in bianco e nero da una parte, un piccolo computer in bianco e nero dall'altro, questo enorme coso, e un file di testo di 30k, ci ha messo mezz'ora ad arrivare dall'altro computer, mezz'ora, però quando è arrivato mi ha fatto uno con il primo scanner che abbiamo visto, non ci volevamo credere, che noi eravamo abituati col punk a tagliare, a fare fotocopie, un disastro, la scansione della cazzo, era per noi fantascienza, la rivista poi noi l'abbiamo fatta così come dei mezzi, come con piccoli computer così che avevamo queste robe qua. Ricordo un po' a tutti che fondamentalmente mentre loro facevano Decoder c'era un movimento universitario che si era sviluppato grazie ai fax. Sì, che era la pantera. Diciamo erano quelli più avanti di quelli che utilizzavano i fax, che già sembrava una cosa stramoderna, insomma. Sì, certo. Adesso se domandi a qualcuno cos'è un fax, persone giovani dicono ma cosa possono essere, però mi interessava ritornare a Conchetta perché cioè, il ragionamento poi sempre in ticinese sta, insomma. Decoder è stato importante perché anche rispetto allo studio e poi tutte le persone che ci aiutavano a farlo, c'è qui Mubi che in qualche maniera ha partecipato anche lui ai primi numeri di Decoder e quindi è stato ha sviluppato le tematiche forti di Decoder sono sicuramente legate sull'immaginario. La letteratura del cyberpunk, se andate a leggere un libro di cyberpunk oggi non potete crederci che è stato scritto negli anni 80, però se sono Giro di vite punto di H. Per esempio, soprattutto Snow Crash, se andate a leggere Snow Crash adesso sembra che è questo mondo, e lui sembrava di dire no, non è possibile che andrà a finire così, invece è stato più peggiore. Comunque tutto l'aspetto del cyberpunk immaginario e dall'altra parte l'etica hacker. Testa nel computer, piedi sulla strada, mettici le mani dentro te nel computer, nell'hardware, non solo nel software, ma tenta di cambiarlo tu. E soprattutto la questione del no copyright. La questione del no copyright che voleva dire mettere in crisi tutta la questione della proprietà privata, soprattutto quella intellettuale. Perché d'altronde, se il fin decoder c'era l'informazione in una banca devi andare a rapinare, noi andavamo nelle banche dati, prendevamo computer, ma lo copiavamo, e quindi questo aveva messo in discussione tutto quanto la questione legata alla proprietà privata. E per noi questo era troppo importante, quindi il no copyright. Ma aspetta, per finire Decoder, per dare prima, perché poi grazie a Decoder anche che si svilupperà l'aggregazione che andrà poi a occupare Conchetta 18. Decoder ha lavorato sull'immaginario letterario col cyberpunk, con tutto quanto quello che si diceva su cyberpunk, quindi intervista a Gibson, intervista a Sterling, ma intervista anche quello che aveva inventato per la prima volta il Linux, no? Adesso non ricordo il nome. Ma dall'altra parte, anche dal punto di vista musicale, per questo non era soltanto una cosa per smanettoni, non era una cosa soltanto per rivoluzionari o tali qua o presunti tali, non era una cosa solamente legata al quartiere, che tanto lavoravamo tanto sul quartiere, ci sono articoli di Primo Moroni che raccontano bene che cos'era il quartiere ticinese, che poi è il quartiere, per intenderci, non solo della tolleranza ma della accettazione della diversità, quindi piccoli truffatori andavano d'accordo con gli operai, per esempio. Decoder ha lavorato anche su, ad esempio, sull'immagine, sulla grafica, il professor Betrip, che poi ancora adesso è considerato uno dei pittori più importanti per quanto riguarda il periodo storico, appunto cyberpunk, Philip Dick e tutti i fumettari francesi, americani, inglesi che sono confluiti dentro la sua arte. Oppure ha lavorato tanto sulla musica. Decoder ha lavorato in... Guarda, io quando ho scritto questa cosa, questo video è già uscito nel 2017, mi sono reso conto l'importanza di Decoder nel trasmettere tutta una questione legata alla storia sociale della musica. Perché? Dal punk, vi ho detto, siamo passati al post-punk, noi la parte più radicale con l'industria. Ma a quel punto, Decoder lavora su due fronti importantissimi. Uno è quello della techno. La techno, che si dice, siccome alla base c'era tutto il discorso della questione della decolonizzazione della nostra proposta, quindi lavoravamo tanto, per esempio, lavoravo tanto con Malcolm X, uno dei più importanti della mia vita, me l'ha passato prima l'autobiografia di Malcolm X. Quindi avevamo cominciato a capire che stava arrivando una nuova forma musicale che era direttamente rintracciabile tra i ghetti americani e poi il resto, è l'hip hop, la cultura hip hop. Nessuno la conosceva, noi ci siamo fatti prendere anche dalle suggestioni che Primo ci diceva dicendo i graffiti, no? I graffiti, le periferie che fanno i graffiti sulle treni della metropolitana, poi questi treni della metropolitana passano in centro, vanno a finire in un'altra periferia dall'altra parte della città, lì vengono ancora disegnati. Un po' questo tragitto che aveva il sospettito Primo, e ci aveva fatto piacere anche a noi capire che dalle periferie e fiori della spazzatura faceva un assalto, anche se solo visivo, nel cielo. Quindi ci era piaciuto questo, era uscito anche un libro importante in quel periodo, che era quello di Richard Fant, che era un fotografo bianco che aveva fatto questo libro, di Urban Graffiti, che era cosa che noi ci guardavamo. E l'abbiamo trasportata sulle pagine di Decoder. Lì poi dopo abbiamo cominciato a conoscere i primi graffittari che venivano a Milano da New York, chiamati dalle gallerie d'arte, ma poi dove avevamo bisogno di fumare una canna o farsi l'eroina, allora venivano in gente da noi che facevamo delle cose simili, e quindi abbiamo conosciuto questi graffittari, ma oppure militanti di base parigini. Io la prima volta che ho visto screcciare in vita mia, via del Teschettere, era un ragazzino di origine algerina che a Parigi già erano molto più avanti di noi. E quindi poi Decoder diventerà quel luogo di dibattito di questo nuovo tipo di musica, che era una musica che portava la gente anche in mezzo alla strada e che a noi veniva comodissima nel aggregare con che, infatti prima con Punchetta poi faremo questi primi carri delle manifestazioni che c'ha su Willy Lischi, sì. E così è poi diventato... Infatti, insomma, si stanno tutta una serie di cose che effettivamente era un po' la storia da fare. Cioè io da circa mezz'ora che cerco di contatti a Conchetta, perché insomma, se no non scorre. Cioè, una cosa importante. Cioè. No, nel senso anche perché poi... realisticamente lì si arriva verso la fine degli anni 80 e già si sente nell'aria che si sta cambiando un po' le cose. Cioè l'arrivo anche della fuoriuscita di un ragionamento sconfittario in giro, un po' grazie al punk, un po' grazie al fatto che alcuni teoremi vanno per aria, tipo quello del 7 aprile finisce nel 87, alla fine un po' si ragiona. Nanni Balestrini in quel periodo, oltre a fare ragionamenti con voi, fanno ragionamenti sulla rivista che sarà di Olivia Prodi, che è la rivista che risematizza e ricostruisce tutto il ragionamento del passaggio dal fordismo al post-fordismo, per cui c'è un ragionamento dietro. Ma più altre ragioni. Sì, altre ragioni e deriva dopo. Sì, però, cioè, nel senso, quell'ambito là è un ragionamento che fuoriesce da sta cosa. E poi nell'88-89 c'è sia lo sgombero di Conchetta che poi nell'89 ci sarà lo sgombero del cavallo, che in quel momento lì diventano poi catalizzatori di tutto quello che sarà quel portato dei movimenti di centri sociali degli anni 90. Cioè quegli anni 90 là nascono su quell'ambito là, nell'89 che sancisce anche la chiusura del muro e una nuova opportunità che si sviluppa anche sulla sconfitta di un'opzione che non stava più in piedi, e questa roba qua insomma si rinnestra con una nuova, anche con una nuova fantasia, perché insomma c'è, nel senso, nei Pirati della Vigli c'è l'immagine anche di un situazionismo praticato in maniera potente, non c'è riso, proprio libera dall'elemento della sconfitta, cioè libera anche dalla retorica di un dover per forza fare gli scontri in maniera classica, insomma. No, sì, no, beh, certo, diciamo che questo tipo di aggregazione che veniva creata dalla rivista Decoder e dal milieu creato ancora dalla Calusca, che nel frattempo la Calusca aveva chiuso da una parte e aveva riaperto in una piazza, Piazza Santo Storgio, e quella piazza lì era diventato un luogo di ritrovo notevole, appunto c'erano i motociclisti, i tifosi del calcio, Caronte che tu prima citavi era un tifoso della curva del Milan, c'erano tanti musicisti, Casino Royale, Manuel Agnelli e After Hours, c'erano pittori, e poi c'era tutto appunto tossici, mica tossici, motociclisti, femministe, ragazzini che volevano solo ballare, e lì in qualche maniera è stata una roba talmente grossa che ci trovavamo tutte le sere in quella piazza particolare, per cui c'erano anche gli anarchici che ci hanno dato praticamente le chiavi di Conchetta, non l'abbiamo neanche occupato, perché Conchetta è in questo palazzo di proprietà comunale che era fatiscente, e sotto c'era una piccola stanzina che era un centro anarchico dell'USI Sanità, dei sindacalisti della sanità anarchici, e sopra c'era appunto tre piani abbandonati completamente, che anche pericolanti, ma tutto stava fermo perché c'era un ristorante di Genovese, che tra l'altro è un ristorante dove il luogo di ritrovo per la sinistra del Partito Socialista, quella che una volta era Craxiana, che poi Craxi farà la svolta destra, però sono manciniani, i socialisti manciniani, quindi una storia c'è. E noi, infatti, il gestore finalmente, quando trova un altro spazio per fare il cazzo di ristorante, si trasferisce dalla chiave all'anarchico Anacleto, il quale ce l'avrà noi. Quindi entriamo dentro questa casa e nel gennaio 88 e lì è diventa subito un posto incredibile, Conchetta, perché è aperto tutte le sere. Con questa questione, Volantino diceva, noi vogliamo sì fare la rivoluzione, però vogliamo anche fare concorrenza alle discoteche, perché le discoteche costano tanto, qui invece costa un cazzo, ballate uguale là, ballate qui, e quindi principio c'era Primo sempre che ballava, non vedeva mai l'ora di ballare, e quindi era diventato veramente molto importante come spazio, e nel giro di un anno, perché dal giugno 88 sbagliato al gennaio 89, Conchetta esplode. Proprio una cosa incredibile, e qui si forma un'aggregazione che è veramente tosta, molto fraterna, anche molto unita, coesa. E quando viene sgomberato Conchetta, si iniziano a fare, prima dello sgombero, non era soltanto all'interno di Conchetta, ma nel quartiere noi ci eravamo fatti conoscere, non a caso, per la prima volta noi porteremo gli impianti, i due piatti nella piazza principale lì di Santo Stogio, davanti alla Calusca, faremo un muro di tutti i graffiti enormi, e per la prima volta la gente ballava per strada, su un incrocio tra le radici storiche del sound system, che ne parlavamo in decoder, e le nuove forme di aggregazione dei ghetti statunitensi, soprattutto del Bronx, no? E quindi facciamo hip hop, portiamo gente che balla, gente che disegna, gente che mette la musica e gente che fa anche speaker, no? Quindi le quattro arti dell'hip hop. Questo chiaramente creare un'aggregazione veramente grossa, anche un po' fastidiosa in zona. Nonostante la zona ci voleva bene, ma però c'erano già i principi di gentrification, soprattutto legati alle colonie di San Lorenzo, perché il ticinese è un triangolo, no? Un triangolo. Alla base c'è la Darsena. In questo triangolo va verso le periferie prima, l'Interland poi, e poi la provincia c'è. E queste sono le due classiche vie d'acqua dove i bifolchi tentano la fortuna in città. E il porto della Darsena era in qualche modo il porto di tentativo di proletari e sottoproletari di migliorare un pochino la propria vita. Quindi, però è un posto bello, le fotografie, la turistificazione stava già arrivando, e quindi c'era un tentativo anche del, allora non si diceva gentrification, ma si parlava di riqualificazione del posto, ma noi ci faceva così, ecco, lì del posto nostro. E quindi noi abbiamo cominciato a subire un po' di pressione, nonostante quel posto sia di proprietà comunale e destinazione sociale, nel gennaio 89 veniamo improvvisamente sgomberati dalla giunta, che era anche di sinistra, il sindaco che si chiamava Pelletteri allora. E lì a quel punto c'è, non è più come quando dopo il CCP che il virus si era disgregato. A quel punto avevamo una rivista di riferimento che faceva migliaia di copie in tutta Italia, ci chiamavano dappertutto. La Calusca, che aveva il riferimento forte come tutte le lotte degli anni 70. Un'aggregazione formata da un po' di tutto, e a quel punto noi avevamo cominciato a pensare come fare per reagire e fare dei cortei, delle manifestazioni, dei cordoni, così ci sembrava assurdo. E comunque alla fine c'era un periodo, era ancora molto legato agli anni 70, c'era una repressione comunque tesa, qualsiasi cosa facevi. E quindi ci siamo dati delle priorità dal punto di vista di creare dei subbugli anche un po' situazionisti all'interno del quartiere nostro per riavere il posto. Il giorno dello sgombero, lì lo racconto, il giorno dello sgombero, per esempio, mi c'era venuto in mente, ragazzo, c'era una sala cinesca con scritto no eroina, perché comunque c'era ancora il problema dell'eroina, quindi noi eravamo contro l'eroina, e quindi durante lo sgombero facciamo tagliare la sala cinesca con scritto no eroina e la portiamo a spalla all'ufficio dei problemi ai giovani, che allora c'era questo problema dei giovani, no? Una cosa assurda, però tutti i giornali ne parlano. Oppure ci sono i locali che cominciano a diventare fichetti, non erano più le osterie di Vittorini, no? Vittorini, che era uno che abitava lì, che era di Trani, sì, queste cose qua, ma c'erano quelli che cominciavano a essere fichette, no? Allora noi andavamo lì, la birra la pagavamo 2000 lire nel centro sociale, lì la prendevano a 5 e noi facevamo autoriduzione. E lì sono stati parecchi problemi, andavamo al cinema, andavamo con le monetine, entravamo in 200 a vedere il cinema perché lo vedevamo anche noi dentro Conchetta. E allora lì sono state delle situazioni per cui eravamo spesso sui giornali e alla fine il comune ha dovuto per forza dare delle risposte. Ha dato delle risposte e le risposte erano tra 40 giorni. Beh no, perché soltanto l'abbiamo sgomberato solo perché c'erano quei tre piani che erano fatiscenti, li tiriamo giù e tra 40 giorni ve lo restituiamo. Perché avevano fatto veramente tanto casino, tutti sempre i giornali che ci parlano di noi, alla fine, vabbè, 40 giorni sono passati e non ce l'hanno dato. Certo. 40 giorni, ha fatto 40 di 40 no, abbiamo fatto il corteo dicendo cazzo è, cioè, ci avete dato le morte, c'era proprio tutta la diversione 40 di 40 notte, no? Allora abbiamo occupato un posto che è bellissimo, si chiamava Acquario perché era tutto di vetro piccolino, davanti alla piazza principale del quartiere dove arrivano i pendolari, davanti alla stazione di Porta Genova, pendolari dalle 6 del mattino alle 9 del mattino e dalle 6 del pomeriggio alle 8 di sera era si riempiva, quindi si svuotava completamente. E noi avevamo questo gabbiotto che era bello perché c'era, era solo un piano e c'era sopra c'era un tetto con patatrame e facevamo concerti lì per i pendolari. E quindi il comune insomma era sempre un po' più sotto pressione, no? Arriva la Conchetta, no? Poi dopo basta, non parliamo più. Sto spoilerando tanto il libro perché poi ci viene in mente una volta che avevamo questo posto qui che il sindaco in persona Pilitteri doveva venire durante la festa della Naviglia. La festa della Naviglia una volta era una festa che tutti offrivano da bere, i formaggiai, il salame, il vino, era una festa popolare. Poi chiaramente già siamo nel 1989, era diventata un'altra merda totale. E il sindaco Pilitteri decide di farsi costruire sullo slargo acquatico della Darsena, quel laghetto che abbiamo lì, un palcoscenico a sbalzo e farà un discorso sulla riqualificazione del quartiere insieme al presidente del comitato commercianti del Ticinese. E questo era quanto. E noi cosa facciamo? Allora ci viene in mente che potremmo fare un assalto. Un assalto ci viene in mente anche che lo possiamo fare come dei pirati. E vorremmo prendere dei canotti belli, affittarli, mandiamolo a un posto che costa affittarlo, costa tutta la nostra cassa comune. E allora andiamo a comprare quelli. I canotti da spiaggia alla stand e ci travestiamo come carnevale da pirati. E solo per fare questa storia qui, cioè senza sapere che poi dopo eravamo veramente un gruppo Perché tante volte anche queste azioni assurde, anche se siamo in pochi, perché alla fine erano 100, perché un cavallo erano venuti, volevano fare il corteo di due razioni, volevano fare, ma noi non avevamo tutto il quartiere della nostra parte, però adesso è tutta la nostra parte, non è che possiamo fare scontri, spaccare le vetrine, che cazzo, siamo andati dalla parte del top, no, facciamo i pirati dei navigli, siamo su tutti i giornali, siamo ogni settimana sui giornali che per questa volta sta andando bene, e quindi loro si mettono a ridere perché noi eravamo con le pagaiette, con le cose come il carnevale, che cazzo volete fare voi? Erano due tipi di lotte che non hanno niente a che fare con noi. Ma la cosa più incredibile è che nonostante questi canotti da spiaggia, 7-8, che eravamo un po' scenografato da pirati, quando scendiamo, ci sono i navigli hanno le due strade, no? Che sono sempre piene di bancarelle, quindi c'è pieno di gente, no? E in mezzo c'erano ancora qualcuno una volta che hanno gentrificato anche quelli di voi, eravamo praticamente su un palcoscenico, e quindi eravamo in 7-8 canotti, per 4-5 persone ognuno, e quando siamo arrivati verso il palco, abbiamo beccato il sindaco in persona senza saperlo. Ma tra di noi c'erano dei personaggi, c'era, mi ricordo, Ian, che è morto l'altro giorno, un slavo ubriaco fradicio, aveva bevuto non so quanto rum, era entrato nella camera di scenografica, e quindi eravamo in una situazione così, traballanti, così con abbiamo saltato il canotto gigantesco del sindaco di Tevere, l'abbiamo fatto scappare. È scappato, e poi un giorno dopo tutti i giornali, ancora questa volta qua, solo per cui vi racconto questa storia qui, perché anche gli attenti, io scrivo, detto che sono un personaggio di fumetti, racconto un po' la storia a fumetti, come ho fatto per esempio anche con gli anni 70 con la banda Bellini. Però questa cosa qui è veramente successa. nel agosto 1989 verrà sgomberato un cavallo e loro risponderanno con le Molotov e lo otterranno. Nel settembre dell'89 noi come conchetta rientriamo, perché 40 di 40 notte erano passati già 6 volte e non erano ancora prese, e quindi entriamo ancora in conchetta, e noi facciamo una conferenza stampa quando sapevo che la polizia sarebbe arrivata, e quindi arriva la polizia, Manganella, noi, ma anche i giornalisti, che hanno fatto questa storia qua un po' strana, e poi ci tagliamo con le lamette da barba, i petti, per dire che stiamo sanguinando, no? Sono girato nel nostro posto, quindi giornalisti non sono picchiati, cioè, hanno visto questa cosa molto spettacolare, e il giorno dopo gli viene detto cosa devo fare, fondo è casa loro. Conchetta ha subito altri due sgomberi, ma è uno dei centri sociali più attivi in Europa, e ancora adesso fa attività fuori dalla società dello spettacolo, e è ancora assembleare, autogestione, nessuno guadagna assolutamente, e ci sono dei concerti e dei gruppi, convegni, assemblee, presentazioni di libri, sono molto interessanti quasi ogni giorno ormai, tra il martedì che è la riunione di gestione. Questa è la storia di Conchetta un po', mi piacerebbe approfondire sul contrario, perché sono andato un po' alla lunga, però sentiamo la domanda. No, qua non c'è nessuna domanda adesso, se le domande sono di loro. Nel senso, cioè, al netto del fatto che oltre a Conchetta c'è ancora la libreria Calusca, e c'è l'archivio Pino Moroni a piano rialzato della libreria, insomma. Nel senso, io realisticamente butto la palla a chi ha voglia di intervenire, chi ha voglia di dire due cose. Poi realisticamente siamo andati anche abbastanza avanti, cioè, nel senso, guardate voi. No, c'è stato forte di dire qualcosa. Non sono obbligati, Però se no faccio io, prendo io le persone. Muovi per primo, dai, muovi per via, ma tu non ti piace. E come si fa? Racconta il tuo apporto per il decoder. No, io sono sul lato che hai ricevuto, diciamo, da voi, perché è stata un'apertura mentale straordinaria per me. Stavo pensando in questi giorni un po' a questo, come si è ribaltata anche questa faccenda, no? Perché veramente il cyberpunk è stato un momento in cui insomma, completamente, come hai descritto tu, fuori dal sistema, eravate più avanti, cioè, tecnologicamente, di concetti, anche se tu, diciamo, sempre sei modesto, decisivo sul fare, ma però in realtà tantissime idee erano più avanti del sistema stesso, no? Ho pensato questi giorni anche a un episodio molto significativo della storia culturale, diciamo, della fine degli anni 90, perché io sono arrivato dopo, e si chiamava Cyber Cultural Research Unit. Erano degli inglesi molto strani, molto fuori, che stavano a Warwick, periferia di Coventry, città veramente strana, bombardata, poi è la città dove avete presente quel The Specials, Ghost Town, Ghost Town, ecco, cioè, questa Coventry molto molto molto tale. E questi scrivevano delle cose assurde, diciamo, molto molto ispirate a questa cyberpunk, eccetera eccetera. Tra questi c'era un tizio che si chiama ancora vivo, Nick Land, che poi è diventato un white supremacist che vive in Cina, un personaggio veramente assurdo, ma che però si nutriva tantissimo di queste cose. E pensavo al tema dell'alienazione, cioè come questa alienazione, che allora era reclamata da alienated and happy to be, perché il sistema era talmente conforme, talmente che alienation era una liberazione. Come si è arrivata totalmente, perché siamo oggi nell'epoca del capitalismo alienato, in cui, mentre per Marx, no, il grande tema dell'alienazione nazista era l'operaio che era alienato, adesso siamo governati da degli alienati mentali, sostanzialmente. Cioè, e questo è veramente straordinario. I romanzi di cyberpunk erano quella roba lì. Snow Crash, se mi capita di leggere questo libro qua, sembra che è una... Allora noi lo vedevamo come una parodia assurda, che cazzo è, ma però è la realtà è anche più incredibilmente pazzesca, no? Se dentro a un romanzo del cyberpunk avessi saputo che qualcuno aveva fatto scoppiare in cerca persone agli Hezbollah, dicevano, no, che cagata, come cazzo è possibile? Invece sta succedendo, è successo proprio anche questo. È un periodo veramente difficile, questo è un periodo difficile, soprattutto perché viviamo anche dalla parte sbagliata della barricata, perché se una volta la barricata era tra padroni e lavoratori, adesso purtroppo la ridefinizione completa dei rapporti di forza tra grandi imperi, forse sarebbe meglio andare in quei luoghi che una volta chiamavamo Terzo Mondo, per fare una lotta decente. Purtroppo siamo qua incastrati dentro una società occidentale in piena decadenza, dove nella stanza dei bottoni ci sono dei alienati criminali, e quindi non è facile per noi tentare di ritornare a fare un'attività politica di base, me ne rendo conto, e ce ne rendiamo forse tutti conto, però è anche vero, è anche per questo che Pirati Navigli è stato fatto nel 2017, è stato uscito per Bonpiani nel 2017. E poi avevano fatto una redazione che non aveva fatto niente, ho dato il libro, è così grezzo, me l'hanno mandato, ho finito il contratto e ho pensato, sto giro facciamo una redazione interna, no, con l'agenzia X, e lo facciamo uscire proprio perché in qualche maniera, quel momento lì in cui noi abbiamo lavorato su due fronti, quello delle alleanze prima di tutto, che è quello decisivo al giorno d'oggi, e dall'altro anche capire che bisogna fare dei progetti comuni, magari anche grossi. Ecco, cioè, chi aveva in mente che facevamo una rivista come The Coder che poi sarebbe diventata, avevamo capito, quattro ragazzini della periferia, un paio che avevano studiato, un altro che per caso stava facendo informatica dentro la cosa, non studiava, lui era dentro al CERN, che era una passione universitaria, ma lui era soltanto lo sperimentatore. E fu puntista, si diceva, di LSI. E chi l'avrebbe mai detto? Però con le alleanze, trovare le alleanze, perché poi è il problema, che non solo noi come persone, come queste nuove tecnologie, tendiamo a fare tutto in casa, stare in casa tutto il giorno, tanto è bello, ho contatto con tutti, però tanto ci isoliamo sempre di più. E questo isolamento potrebbe essere magari superato, ma in una nicchia ben precisa, no? Quindi ci sono la battaglia ecologiste, come quelle di ultima generazione, Extinction Rebellion, oppure ci sono le battaglie LGBTQ che però non si parlano, oppure ci sono quelle battaglie diciamo legate al mondo del lavoro che ancora non si parlano con le altre, ci sono le battaglie internazionali, quindi una parte, la Palestina dall'altra, ma sono tutte situazioni che non si parlano. È come se quelle solitudini che noi abbiamo in casa si producono anche nel movimento con piccoli gruppi che non è per questo discorso delle alleanze, dell'accettazione della diversità, diventano importantissimi in questo periodo, e poi è stato uno dei motivi che mi ha portato anche a riflettere su quando facevo Piatina Vili, quello che stavo facendo l'anno scorso in questo periodo proprio. E questo è quanto. E dall'altra parte c'è anche la questione che se riuscissimo per caso un giorno a prendere un militante o una militante di ultima generazione, un militante o una militante di LGBTQ, un militante sindacalista, e metterlo insieme e fare una rivista, oppure metterlo insieme per tentare di fare un progetto qualsiasi. Io devono progetto. Fare loro però, di parte, non lo dobbiamo fare noi. No, è questa la cosa, cioè noi non secondo me, posso dire, no? E non voglio parlare, che poi nella tua storia, forse non in maniera diretta, ma ce l'ho dei numeri di decoder, poi insomma molte cose mi ci sono ritrovata pur non essendo milanese. Forse la differenza, no? Senza voler fare l'anziana, perché è terribile, no? E perché comunque insomma ogni tanto diciamo stiamo facendo il come eravamo, chi più, chi meno, vabbè. È che forse nessuno di noi cercava l'approvazione da parte di qualcuno, no? Si andavano a fare le robe, si facevano le cose. Forse adesso questo discorso che devi essere visibile, perché mentre raccontavi la storia dei pirati, sì, così probabilmente non c'era nessuno che stava lì, faceva i video, faceva le cose, invece, però ne parlavano tutti i giornali, i risultati della rete audio. Cioè, adesso siamo in un'altra era, è inutile che... non so come dire, e forse nessuno ci ha riflettuto bene, perché da tutto il nucleo degli anni fine 80, anni 90 della tecnologia che nasceva, e in cui anch'io sono nerd, adesso non sembra, diciamo, però vengo da quel mondo, Havana BBS, cioè tutta una serie di situazioni a cui abbiamo creduto fortemente, perché era l'orizzontalità, la comunicazione generale. Io mi ricordo, tornavo a casa, parlavamo delle manifestazioni con i compagni di qua, di là. questa cosa qui, poi è arrivato il mercato e questa roba ha prodotto quello che viviamo adesso, che molti ragazzi non sanno nemmeno, cioè sono i nati Zuckerberg, cioè tutti questi che erano dei nerd hanno fondato gli imperi che adesso ci governano. Dentro questi imperi, peraltro, ci siamo anche noi, perché sti affari ce li abbiamo, comunichiamo in questo modo, quindi forse cominciare a dire che come si creano dei meccanismi per sovvertire di nuovo questo tipo di contesto, di comunicazione che c'è, dentro il quale noi siamo e dentro la quale dobbiamo cercare di capire, che non è vuol dire mi vado a isolare, butto via il telefono, cioè, no, perché quella non è la risposta. Cioè, dobbiamo cercare, no? Fino adesso è come se a un certo punto questo meccanismo si fosse ingolfato no? E tutti aspettano chissà cosa, perché a volte la mia sensazione è che, e guarda che io sono, faccio poco qui il centro sociale, e qui i ragazzi che sono qui, le nuove generazioni, sono fantastici, lo mandano avanti, cioè, si cerca di fare il possibile. Però mi sembra che ogni tanto io sono insegnante tra l'altro alle medie, però ho comunque un polso su, no? Le dinamiche giovanili, preadolescenti, un po' adolescenti e così, che si sia tornati per certi aspetti a degli aspetti prepolitici addirittura, no? Però in tutta questa cosa, senza voler dire, no? Nostri anni adesso, così come troviamo dei meccanismi dentro, no? Questo sì. Tipo di mondo. Sì, sì, no, ma io poi sono un personaggio del fumetto e cerco di tirare un po' dei fili. Non ho soluzioni assolutamente. No, nessuno. Però il discorso delle alleanze, secondo me, sono un giusto esempio. Quelli di Smash and Oppression, non so se c'è qui qualcuno che si batte per questa lotta. Sono quelli dei rave che hanno subito il decreto anti-rave e quindi il primo decreto della rave. Sì, è il primo decreto della rave. E mi capita molte volte, noi facciamo tanti libri sulla controcultura rave e mi fanno sempre questo tipo di domande, ma io ho scritto una storia che in qualche maniera potrebbe far capire quali sono i principi nel creare le alleanze, no? Perché poi sì, dici pre-politica, però bisogna capire, pre-politica anche noi punk ci chiamavano pre-politica, se non c'era Primo c'erano tutti i compagni degli anni 70 che dicevano che cazzo siete voi, infatti quindi anche questo aspetto nell'accettazione della diversità è importante. Poi questo qui è un libro che parla soprattutto alle persone che sono attiviste dei centri sociali o al massimo frequentatori. È un libro che racconta la storia di Trinchetta, la storia di Decoder e in qualche maniera è un periodo storico allora che proveniamo da una grande sconfitta, adesso altro che sconfitta, sembra tutto quasi raso al suolo in qualche maniera, e anche all'interno nostro ci sono state tante problematiche, pensiamo ad esempio al Covid, ai Novax, ai Sivax, che erano un disastro, oppure la guerra in Ucraina e quello che sta succedendo in Palestina, cioè siamo sottoposti, noi che veniamo appunto da quella storia, alle diverse contraddizioni della modernità. E questo bisogna metterlo in conto. Indubbiamente se si riuscisse a fare dei percorsi del genere, creare dei grossi progetti, delle grosse utopie, non sarebbe male questa cosa qui. E anche Decoder poi è stato, noi eravamo giovani, c'erano quelli degli anni 70 che erano molto più grandi di noi, io ero un po' in mezzo, però eravamo tutti più piccoli rispetto a quelli. Adesso come adesso, tra l'altro, che tutti i grandi nostri maestri sono morti o stanno morendo, si tratta anche tenere acceso un piccolo fuoco che gli anni 70 hanno dato al popolo italiano di ribellarsi in qualche maniera, è solo questa la mia possibilità. Un'altra cosa che volevo dire, abbiamo prima parlato di Gianfranco Manfredi. Gianfranco Manfredi, per i più giovani non lo conoscono, noi abbiamo fatto un libro, Ma chi ha detto che non c'è, che è la sua famosa canzone, che ci ha lasciato un mese fa circa, e quindi io sono abbastanza triste, però mi piace sempre, lui era molto, tipo molto ironico, faceva morire da ridere quando parlava, ha fatto una lunga tournée, ma io posso stare anche qui a Trento, poi alla fine non siamo riusciti, perché si era fatto male, si è spaccato in, l'avevo portato in giro per tutti i centri sociali italiani, a un certo punto, aveva già solo 70 anni, e si è spaccato il braccio, quindi l'ultimo dato l'ho saltato, per tutto questo qui a Trento. Lui è un personaggio eclettico, uno che era uno dei allievi di uno dei più importanti filosofi di allora, che era Dal Pra, e lui era rincorcito per prendere la cattedra a 25 anni, quindi era una specie di genio, era Gianfranco Manfredi, ha rifiutato tutto e si è messo a fare il cantautore. Poi è diventato famoso come cantautore, poi ha deciso no, faccio più cantautore, faccio pure sceneggiature di fumetti. Poi sceneggiatore di fumetti, ha continuato a fare, però si è messo anche a scrivere, ha fatto delle cose straordinarie tutte quante. E lui cosa diceva? Tentando di rispondere a quello che non è. E lui diceva, quando c'è tanto disordine, non è detto che il nostro piccolo apporto possa cambiare. Una questione che nel disordine c'è tanta creatività, c'è tante idee che saltano fuori. Conchetta, no? Il pirata di narici, il cazzo viene fuori. Nel disordine di quel periodo, come nel disordine ancora più assurdo di questo periodo, è facile che basta un atomo che si diriga in un'altra parte, che poi magari l'intero circolo cambia. E quindi lui sosteneva, ognuno porti quello che può, faccia quello che può. Faccia quello che può per questo principio d'alleanza, faccia quello che può di un progetto utopico irrealizzabile magari adesso. Ma in qualche modo io sono anche d'accordo, non so se qualcuno legge Il disertore di Bifo, non so chi è che legge Il disertore di Bifo? Nessuno. Vabbè, lui sostiene che bisogna disertare tutto. Io dico disertiamo quello che possiamo. Buono. Lui sostiene che c'è una valanga. Una valanga che sta venendo addosso a noi è destinata a distruggere il paese che sta a valle, questa valanga che scende, che spatta. Anche con tutte le forze di questo mondo noi non riusciremo mai a fermare, anche se per caso una ricomposizione improvvisa non riusciremo a fermare ormai troppo. E quindi lui sostiene disertiamo anche quel tipo di tentativo di fermare un mondo impazzito, cerchiamo di metterci da lato e progettiamo qualcosa per il paese che tra un po' verrà distrutto. E questo è una cosa che a me di Bifo piace, perché è per tutto, quando lo leggete vi sparate un colpo in testa, vi buttate giù la finestra, sarebbe così. Però in realtà Bifo dice anche questo, proviamo a fare un'alleanza che ci allontaniamo dalla valanga e pensiamo a come ricostruire il paese che aveva distrutto.